E ben ritrovati come sempre ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono, come sempre, il vostro Jean-Luc. Riparte la stagione, abbiamo subito ospiti in studio. Stavolta direttamente da Londra è venuta a trovarci una formazione molto particolare che presenterà il suo nuovo disco. A voi la parola per le presentazioni. Ciao a tutti, noi siamo i Diaries of a Hero, una band di Londra, suoniamo metal e abbiamo membri che vengono un po' da tutte le parti. Noi siamo due italiani, abbiamo un croato e un gallese. E con i Diaries of a Hero, una prima parte dedicata all'hard rock inglese della seconda metà degli anni 70, con alcuni nomi di spicco che emersero in quel periodo. La prima canzone era Not Faking It dei Nazareth, band scozzese guidata ancora oggi dal rock vocalist Dan McCafferty sin dal 1968. I Nazareth sono tra le hard rock band che vengono sempre citate solo dagli appassionati di culto. Un peccato che si parli sempre poco di loro, che ne dite? No, vai tu Matteo, che tu sei. Ma personalmente, esatto, è uno di quei nomi che si sentono spesso nominare, però non è che li sentiamo spesso per radio, magari come... A parte Love Hurts, che è il pezzo più famoso, diciamo. Invece, sai, io li avevo conosciuti con la cover di This Flight Tonight, di Johnny Mitchell. Mm-hmm. Anzi, io li conoscevo solo per questo. Ecco, quindi hai scoperto qualcosa altro anche. I Diaries of a Hero sono assieme dal 2008, ma in questi 3 anni avete già bruciato le tappe. Una cronistoria della band, perché avete deciso di trovare questo nome? Beh, in realtà, io sono Charlie, sono il cantante, suono la chitarra per i Diaries of a Hero. Dunque, fondamentalmente, il nome non c'è. In realtà il nostro nome originale, quando ci siamo conosciuti in università 4 anni fa, era God's End. Che poi abbiamo scoperto poi che invece c'era era un nome che era molto comune, in realtà c'era un po' ovunque. C'era una band rap di Tegucigalpa. E ce l'aveva, c'era anche un gruppo metal di un altro paese, se non mi ricordo. Fatto sta che abbiamo deciso di cambiarlo e infatti per un bel po' siamo rimasti senza nome. E durante le registrazioni mi ricordo che, infatti è una storia bella, però mi sono svegliato in mezzo alla notte che stavamo registrando, eravamo tutti a casa della zia di John e praticamente mi è venuto in mente, ragazzi, sarà Diaries of a Hero? Basta, non c'era altre opzioni, quindi siamo rimasti così. Ancora musica hard rock inglese, passiamo al 1974 con gli UFO, esce il disco Phenomenon e la band presenta il nuovo entrato Michael Schenker alla chitarra. La svolta da un rock spaziale ad un rock diretto fa schizzare la band verso un rock robusto e diretto che avrà influenza sugli Iron Maiden. Da quel disco il brano Rock Bottom. Nature's queen, yeah. Know what I mean? Un'altra grande band di culto che viene sempre citata, non fosse per la presenza negli anni 70 e in piccolissima parte nei 90, del talentuoso chitarrista Michael Schenker. Che ne pensate? Tra l'altro, Jean-Luc, grazie che ci stai facendo riscoprire queste chicche. Sul serio. No, fantastico. Io in realtà Michael Schenker lo conoscevo di più attraverso gli Scorpions. Gli UFO, fantastici. Anche lì, hai ragione, un'altra di quelle band che non si nominano tanto. Riscoperti anche, grazie, non so se te li ricordi, i Riot. Sì? Sono, credo siano una delle maggiori influenze dei. Certamente. Infatti mi sembra che abbiano fatto una cover in uno dei loro ultimi album. Infatti io li ho riscoperti poi tramite quello. Vostre esibizioni come sono andate? Quali le più importanti in termini di esperienza e le impressioni che avete raccolto dal pubblico alla fine dei live? Voi avete anche la possibilità di raccontarci come è andata sul fronte inglese. Beh, guarda, dal live va sempre benissimo. Infatti molta gente dice che preferiscono il live che l'esperienza, cioè l'esperienza live piuttosto che il CD. Infatti, no, anzi, questo è quello che ha detto l'ultima persona quando eravamo a Ferrara. Pochi giorni fa, due giorni fa, dove eravamo al Milestone Festival di Ferrara. E, no, insomma, praticamente va sempre bene. I concerti di solito, sai, ogni tanto sì, ogni tanto ti esce meglio una canzone piuttosto che un'altra, oppure sbagli qua piuttosto che lì, però sai, è sempre. Di solito dal vivo ci divertiamo un casino. E facciamo anche tantissime prove il più possibile. E poi niente, scusa. Riguardo anche il versante inglese, insomma. Ecco. Ah, il versante inglese, anche quello è andato molto bene all'inizio avevamo cioè delle risposte molto positive. L'ultimo concerto che abbiamo avuto a Londra invece è andato male, ma non era per colpa nostra, era proprio organizzato alla cavolo. C'era quasi nessuno, c'era gente che non interessava neanche il metal in generale, era proprio molto male. Però quando c'è un buon pubblico organizzato da delle promozioni fatte come si deve, allora devo dire che sì, sono più casinisti di solito. Strana, direi che a Londra si danno più da fare per far casino. Sarà perché sono degli alcolizzati terribili. Cara vecchia birra. Però il miglior pubblico che abbiamo trovato, devo essere sincero, è stato in Austria. Assolutamente. A Schwaz. Siamo andati a suonare a Schwaz, che è vicino Innsbruck poi. Bellissimo, abbiamo suonato, abbiamo fatto una cover degli Slayer, abbiamo fatto Rain and Blood, che ci eravamo imparati in macchina mentre stavamo andando. Ed è stata stupenda, hanno fatto tanto casino che hanno distrutto un amplificatore, è venuto a finire il concerto con una chitarra sola e io mi sono messo a cantare, basta. Concludiamo questa prima parte con i Motorhead dalle BBC Session del 1978, la versione live di I'll Be Your Sister, con il trio della formazione originale. A fra poco per la seconda parte, sempre con i Diaries of a Hero.